Mi chiamo Inga e vengo di Germania, in cerca di marito italienisch, che mi cucini la lasagna, con fascino elegante come ai tempi di Gattopardo, ma che sappia fare tiramisù, sempre pronto a inzuppare il savoiardo. Cerco italienisch arty lover, con peli da farci un pullover, moro mediterraneo, under 30 ma anche over, teutonica bionda valchiria, disposta a metter su famiglia. Cerca italico marito, che almeno arrivi all'ombelico, marito italiano, che fa pipì senza alzare tavoletta, gabinetto, ma fa bene amore sotto doccia a cantare il goletto, che mentre lava denti non chiude il rubinetto, però a colazione porta cappuccino a letto, beve birra e gioca a biliardino al bar. Ja, marito italienisch, gut schmecken, wunderbar, wunderbar, super, ja voll. Dalla Germania vengo e mi chiamo Inga, sotto un apparente occhio di ghiaccio nascondo un cuore di meringa, cerco adorabile terrone che mi faccia assaggiare il suo torrone, un seriale irresistibile e bugiardo che venga dalla terra del limone, che non sappia fare pulizie di casa, che ti porti fuori a cena di sorpresa e che poi si inginocchia all'improvviso con l'anello in una fetta di torta paradiso. Marito italiano che fa pipì senza alzare in tavoletta, gabinetto, ma fa bene amore sotto doccia a cantare il goletto, che mentre lava denti non chiude il rubinetto, però a colazione si presenta col cornetto, beve birra e gioca a biliardino al bar. Ja, marito italienisch, gut schmecken, wunderbar, wunderbar, jawohl, wunderbar.